24, i gialli della storia. Da ragazzino, quando andavo in palestra, pensavo di poter partecipare a un'Olimpiade e sarei stato l'atleta più felice del mondo. Sono l'unico che ha vissuto 17 Olimpiadi. Quando arrivò la notizia che sarebbe stata a Roma, era la mia aspirazione. Allora ero molto piccolo, due anni prima delle Olimpiadi avevo 15 anni, quindi... Quando si seppe che le Olimpiadi sarebbero state a Roma, io non avevo ancora cominciato a fare scherma. Le Olimpiadi hanno portato a Roma senz'altro del benessere, comunque una curiosità, un'attenzione della quale qualunque paese ha bisogno. Io credo che il successo fu questo, che si avvicinò al mondo sportivo, il mondo in generale, molta gente che non si occupava assolutamente, fu però presa da questa idea che far fare a Roma una bella figura era un interesse di carattere generale ed eravamo tutti impegnati a realizzarlo e ci si riuscì. A 25 anni fu un'Olimpiade di grande intensità emotiva, insomma io partecipavo alle gare come se le effettuassi io e non le scrivessi. E la cosa più che mi ricordo è che si faceva particolarmente attenzione a collezionare le spillette che rappresentavano i diversi paesi. E questa collezione a noi, io sedicenne, gli altri che avevano meno anni o più anni, era una delle cose preziose da mostrare. Ma solo vivendola dentro ti rendi conto il mondo che si muove con un'organizzazione imponente e tutto ha funzionato nel modo migliore. Credo che è la storia. $13 ori, $10 argenti, $13 bronzi. E questo è il medagliere della squadra italiana alle Olimpiadi di Roma del 60. Un evento rimasto nella storia non solo come una grande festa dello sport, ma anche perché ha segnato il momento magico dell'Italia della ricostruzione e del boom economico. Per le Olimpiadi di Roma si fa più bella e più moderna. Sono passati solo 15 anni dalla fine della guerra e l'Italia non è più un paese in ginocchio. È una grande potenza che sembra destinata ad una crescita inarrestabile. Alle 17esime Olimpiade partecipano 84 nazioni, più di 5.000 atleti. Ed è stata una vetrina straordinaria per la capitale e per tutto il paese. E poi le grandi strutture realizzate da Pierluigi Nervi, le competizioni organizzate nei luoghi archeologici come le Terme di Caracalla, la Basilica di Massenzio, ne hanno fatto un evento irripetibile. Oggi a Mix24 racconteremo quell'esperienza straordinaria attraverso le testimonianze dei protagonisti di quel momento come Nino Benvenuti, Gianni Rivera, Giovanni Trappattoni, Raimondo D'Inzeo, Livio Berruti e i ricordi di quelli che ci hanno vissuto vicino come Giulio Andreotti, Mario Pescante, Maurizio Costanzo, Gianni Meridoni e Enrico Vaime. Era un'Italia che veniva da un periodo post bellico, dove c'erano poche lire ma c'era molto entusiasmo, molta voglia di fare, di conoscere, di creare. Un'Italia animata da una volontà in realtà proprio di riscossa, di rinascita, no? Tanto entusiasmo, tanta voglia di far bene. Era un'Italia che ha fatto un po' di strada, ne doveva fare ancora molta e conserva anche i propri difetti, che questi ce li porteremo per l'eternità dietro, ma rappresentano anche questi forse un valore. Era un'Italia ricca di entusiasmo, era un'Italia che cresceva, era già passata la guerra, ma era, è venuto il boom economico. Roma si appresta al grande evento, le Olimpiadi del 1960, le prime nella sua storia. Un aeroporto nuovissimo per i millenari giochi di Olimpia. Già pronte due piste d'atterraggio, una lunga 4 km, l'altra 2,5. Accoglieranno atleti e spettatori che giungeranno da tutto il mondo. Sarà il primo saluto di una città che rinnova il proprio spirito eterno. Thank you. momento che credo più fu l'inaugurazione dello stadio olimpico, fu un momento che probabilmente erano secoli che Roma non viveva un attimo di così convergenza, di tanta dose di ottimismo, c'era veramente commozione. Giulio Andreotti, il 25 agosto 1960, inaugura a Roma i giochi della 17ª Olimpiade. L'Italia ha superato da poco uno dei periodi più concitati dalla pur giovane storia repubblicana. Edoardo Mangiarotti, schermidore 5 volte campione olimpionico, è l'alfiere della squadra italiana, che chiude la parata come nazione ospitante. Consolini, che ha ancora avuto l'incarico per fare il giuramento, mentre io ero lì che con la bandiera sopra, l'ho sentito mancare. Credo che qualche lacrima anche a lui è uscita in quel momento. A nome di tutti i concorrenti, giuro che noi partecipiamo ai Giochi Olimpici come concorrenti leali. La sfilata, la bandiera, il giuramento, sono cose che sono indimenticabili, restano ancora nella mia... Mi emozionano ancora adesso. La televisione è intervenuta in forze. Le platee olimpiche, che una volta erano limitate agli spettatori e sovente agli spettatori fortunati che potevano trovare posto sulle tribune, si sono estese. Il pubblico degli stadi sarà soltanto una piccola percentuale di coloro che seguiranno l'avvenimento sportivo. Cominciano le gare e anche le prime soddisfazioni per l'Italia. Il colonnello Raimondo D'Inzeo vince la medaglia d'oro nell'equitazione del Gran Premio di salto ad ostacoli, seguito dal fratello Piero, che vince la medaglia d'argento grazie a una prodezza, riuscendo a continuare e concludere il percorso nonostante un incidente subito dal suo cavallo. Davanti al loro pubblico, i fratelli D'Inzeo, che sono romani, hanno conquistato il più degno alloro di una magnifica carriera. Ecco Raimondo in sella a Posillipo, medaglia d'oro, Piero con The Rock, medaglia d'argento, e l'inglese Brom, medaglia di bronzo. Ci hanno dato le medaglie che non erano d'oro, erano di metallo, perché allora la medaglia d'oro era contro lo spirito olimpico, perché aveva un valore è un po' differente da oggi. A parlarvi degli impianti in cui si svolgeranno le prove equestri è il capitano Raimondo D'Inzeo, uno dei cavalieri più acclamati e rappresentativi. Mi ricordo ancora i D'Inzeo a Piazza di Siena, no? A cavallo. Ci troviamo in Piazza di Siena, cornice più idonea di questa per parlare delle prove riservate allo sport equestre, non potevamo trovarla. Avevamo la passione di più e poi avevamo la disciplina soprattutto, perché quella era la cosa più importante, sia nella fase di preparazione che nella fase di impiego. Raimondo D'Inzeo su Posillipo è l'unico a compiere il percorso senza errori. Ho scelto Posillipo perché era un cavallo che aveva un cuore grosso come una casa e allora non mi preoccupava, dico qualsiasi cosa trovo sto a posto. Reggendolo con fili di seta, Raimondo conduce il suo vecchio Posillipo attraverso tutte le asperità del tracciato. Il fratello Piero attende il suo turno. Dopo di lui, chi farà meglio? Siamo venuti la mattina, io ho fatto già tardi la mattina perché dormivo. E poi nell'intervallo delle due manche io ho fatto un salto a casa. Mi sono mangiato un piatto di spaghetti e dopo mi sono fatto la pennichella. E sono arrivato e c'era il carabinieri che mi diceva: colonnello Don Callegna. Beh, eravamo molto tranquilli, io pure ero sicuro del mio cavallo. Eccolo alla doppia gabbia, quella che ha sbagliato stamattina, ma stavolta l'ha superata al primo ostacolo e ha superato anche il secondo. Raimondo è veramente superbo. La fortuna mia è stata di avere mio fratello, perché per me, quando io battevo mio fratello, per me era un punto d'arrivo. Ma non rivalità, cioè hanno usato questa rivalità perché eravamo due combattenti, allora se io ero in testa lui cercava di battermi e se era in testa lui io cercavo di batterlo. Piero D'Inzeo su The Rock è uno dei più regolari concorrenti, 4 sole penalità nella prova precedente. Il merito di Piero è che ha avuto un incidente in percorso. Il cavallo che gli era inginocchiato dopo un ostacolo, e lui, da quel maestro che è riuscito a rimanere in piedi, si è rialzato e ha continuato il percorso. Con eccezionale maestria ha richiamato il cavallo e si avvia a conquistare il secondo posto. Piero era più freddo, più... io ero più combattente. Ma Roma 1960 è anche protagonista di gesti epici che sono rimasti nella storia dello sport, come la vittoria nella maratona di Abebe Bikila, atleta etiope che vince la gara a piedi nudi e regala al continente africano la prima medaglia olimpica della sua storia. Al cospetto dei Dioscuri, la straordinaria umanità della maratona. Quando si parla alle Olimpiadi di Roma, bene, ancora tutti parlano della maratona di Abebe Bikila. Bianchi, gialli e neri si lanciano sulla strada, come se l'arrivo fosse lì, invece che a 42 chilometri e 195 metri. Furono momenti in cui si stava tutti col fiato sospeso, anche chi non si occupava di sport, insomma, i vecchietti, i paralitici, insomma... per quel momento erano tutti uno. Con Kili sono in testa l'irlandese Messit, il belga Van der Driesche, i marocchini Radi e Saudi. E c'è lo sconosciuto etiope di prima. Si chiama Abebe Bikila. È scalzo. La cosa che impressionò me e tutti quanti è che questo corresse scalzo. Perché non è... e corre scalzo sul basalto e sul acciottolato della Piantica, per esempio. Non credo che sia una cosa semplice. Al 20° chilometro in testa sono rimasti in due. Il primo è un riconosciuto campione podista. Il secondo è proprio lui, Abebe Bikila. Radi e Abebe entrano nella notte, ma per loro si illuminano le porte di Roma. E arriva in questa cornice della più grande archeologia del mondo. Arriva in una notte incredibile. Manca un chilometro al traguardo. E adesso Radi deve lasciare che Abebe vada da solo a vivere la fantastica notte. Alla maglia verde è il numero 11 ed è l'etiope Abebe. È a 50 metri dal traguardo. Lo taglia. Giochi della 17esima Olimpiade. Prova di maratona. Primo Abebe. Maratona vinto a piedi scalzi da un atleta africano, per cui si è unito alla bellezza del palcoscenico al fatto che il protagonista è stato un atleta africano. Per l'Italia arrivano altre soddisfazioni dal ciclismo con la vittoria su pista nella velocità individuale di Sante Gagliardoni. Nella fossa del velodromo olimpico, Sante Gagliardoni. È nato contadino. La prima volta che lo portarono in pista scappò via perché le curve alte gli facevano paura. Io nella velocità penso che in quel periodo non ce n'era per non nessuno. Ce n'era perché andavo talmente forte che tante volte mi spaventavo anch'io. Possiede la volata breve e la volata lunga. Ha lo scatto e la potenza. Correre contro un avversario o contro il tempo gli è indifferente. Tanto a perdere lui non ci sta mai. Sono arrivato integro a Roma, già campione del mondo, e i primi allenamenti Li ho fatti vestendo, non mi vergogno a dirlo, mettendomi la maglia di campione del mondo sia la notte che il giorno. Per due o tre giorni non me la sono più levata. Gagliardoni attacca all'esterno, uscita dell'ultima curva, sono impegnati a fondo, passa Gagliardoni, primo Gagliardoni, secondo Sterz. Gagliardoni è campione olimpico della velocità individuale. Dal ciclismo arriveranno anche le medaglie d'oro dell'inseguimento a squadre, nel tandem, nel chilometro da fermo e nella 100 km a squadre, a dimostrare la superiorità italiana della scuola ciclistica di quell'epoca. Ma un altro momento straordinario è quello legato al pugilato, alla vittoria nei pesi welter di Nino Benvenuti, che successivamente diventerà professionista e diventerà campione del mondo, sia di super welter che dei medi. Non sarei stato Nino Benvenuti senza le Olimpiadi, perché avrei dovuto fare una traiettoria diversa, avrei dovuto conquistarmi un ruolo, un personaggio, con molta più fatica di quella che invece ho fatto da campione olimpico e che chissà se ci sarei riuscito. Si accendono le luci del ring al Palazzo dello Sport per la più bella serata del pugilato italiano. Nei 10 incontri di finale, 6 azzurri sono impegnati. Molti sono i riguardi che Benvenuti usa ai suoi ospiti. In particolare risparmia loro la punizione del destro. Nessuno d'altra parte lo disturba. La conquista del titolo olimpionico non è per il triestino che una formalità, come fu la conquista di 2 titoli europei e di 100 vittorie in altrettanti incontri. Il combattimento è stato vinto da Benvenuti. Un'altra medaglia d'oro viene a premiare questa magnifica squadra di pugili azzurri. Il momento sul podio? Vabbè, quello. Quello è una vita intera. Quando sono salito su quel podio ho alzato le braccia al cielo e lì ho salutato mia madre, che non c'era più da 4 anni e che non ha potuto quindi vedermi, pur avendomi visto crescere con il pugilato. E quel momento me lo porto con me per sempre. Fu il grido del pubblico, 20.000 spettatori che ti chiamavano per nome e urlavano. E quella medaglia d'oro al collo, che me la toccavo, continuamente la toccavo, che mi sembrava non fosse vero. Nella 17ª Olimpiade le soddisfazioni che sono arrivate dalla squadra italiana sono tante. In quell'edizione si distinse la scherma, la pallanuoto, la canoa, il canottaggio, il tiro a volo, la vela, il sollevamento pesi, il calcio. Ma nell'immaginario collettivo rimarrà per sempre l'impresa di Livio Berruti sui 200 metri, che in quell'occasione eguagliò il record mondiale. È incredibile come sia passato molto tempo e ancora riesco a riassaporare quei momenti di, proprio quasi di gioia serena, che mi hanno permesso di affrontare quella gara con la curiosità di scoprire fin dove potevo arrivare. La curva mi dava quasi un senso di piacere erotico, perché mi divertivo proprio a vincere questa forza centrifuga con facilità, con disinvoltura, anzi anche in allenamento, più che fare gli allunghi rettilineo, mi divertivo a farli in curva e fare anche delle zigzag, perché mi dava questo piacere proprio estremo di riuscire a vincere con disinvoltura e proprio con gioia questa forza centrifuga che io dominavo con estrema tranquillità. Il trionfo di Berruti sui 200 fu qualcosa di spettacoloso, quando prese questa curva e distaccò tutti. Beh, questo infatti è sempre il simbolo che viene portato, perché ha rappresentato proprio nella storia della nostra nazione un momento di attenzione del mondo per l'Italia, cosa che non eravamo abituati. Il giudice ha alzato la pistola. Via! Sono partiti, avvio bellissimo di Berruti e urlo unico del pubblico. Sono in piena curva con Berruti che conduce e all'esterno lo attacca Norton. Berruti attacca in testa gli ultimi 60 metri, poi che avanza al largo. Berruti avanza irresistibile verso la vittoria. A 10 metri, a 5, ha vinto Berruti! Ha vinto Berruti! Livio Berruti ha conquistato la medaglia d'oro per l'Italia. Captavo il rumore, lo scalpiccio degli avversari e non sentivo il rumore della folla, questo è una frutto proprio della selezione di rumore che fai quando corri, e ansiosamente vedevo il traguardo che si avvicinava e cercavo di captare il rumore degli avversari se mi stavano raggiungendo. Contro gli americani era un po' una gara in salita, invece per lui fu in discesa. Ho visto la vittoria di Livio Berruti, qualche cosa di... Oh, mi commuove! I 200 erano qualche cosa che all'Italia non appartenevano, cioè l'atletica leggera apparteneva più al mondo degli americani, era questa, specialmente al mondo dei neri, a questa potenza fisica, e lì si vede un omino leggero con una struttura molto delicata, torinese. Ma gli americani sono rimasti molto sorpresi perché non pensavano che una persona esile e tranquilla come me potesse infastidire i grandi campioni celebrati d'oltreoceano. Infatti sia Norton sia Johnson erano persone strutturalmente più belle di me, più alte, di piccoli bronzi di Riace. L'11 settembre del 60 si chiude la 17esima Olimpiade. È stato un successo organizzativo e sportivo e sarà sempre ricordato come un evento unico anche per la straordinarietà dei luoghi che hanno ospitato le varie discipline. Nella mente dei protagonisti, di quelli che hanno vissuto quei meravigliosi giorni, anche solo in televisione, rimane un ricordo commosso e indelebile. Tutta la grande Olimpiade è già un ricordo, struggente nostalgia di una stagione serena che dal 25 agosto all'11 settembre del 1960 fu la stagione del mondo. Beh, ci sono 5-6 flash, la sfilata è qualcosa di eccezionale, entusiasmante. Erano tanti gli atleti che hanno lasciato un segno importante in quella manifestazione e si è capito che era particolarmente sentita. Dette un senso di coesione, di coagulo, a cui non eravamo abituati. Questa gioia, questo trionfo dello sport fatto in Italia e fatto a Roma è stato veramente una cosa di grande orgoglio. La sentirono proprio tutti gli italiani, non solo i romani. Cosa strana di quelle Olimpiadi che le ho vinte troppo presto. A 21 anni vincere il titolo olimpico vuol dire raggiungere già il massimo delle tue aspirazioni. Ovviamente poi dopo ho continuato a fare atletica perché mi piaceva sempre, però forse mi è mancato quello stimolo massimo per poter dare di più. Ho vinto tanti bei titoli anche dopo l'Olimpiade, ma quello che ho e che avrò sempre nel cuore è quello di Roma, quello della 17esima Olimpiade.